destiny to love. Walking hand in hand in there. Hold me tight when I look into your eyes. I've been waiting for your love. Hold your life just for the destiny of love. I adore to see you smile. You smile. Hold me tight when I look. We'll be right back. dire in quei momenti. Un po' struggenti. Tanti cambiamenti. Tutto che appare chiaro. E tu ne eri ignaro. Ma in un istante. È tutto meno pesante. Tutto può cambiare. Basta lasciarsi andare. Musica. Back. bim, pau, passa, cabaça, bim, pau, a cabaça, a pau. Bimbau, a cabaça, arau. Passa, cabaça.

Thank you.